sì. Ti inchiostro farli neri, vederli uscire dalle mani e spedirti i miei pensieri. Ma dalla scuola io scappavo per cercarti nei canneti, sfuggendo gli occhi del nemico, tua madre e i suoi divieti. Qui è dura ma sto bene, certo non mi fa piacere, ma quando in furia la battaglia faccio sempre il mio dovere. Sempre più che posso, ne uccido tanti, sai perché? Finisca prima questa guerra e più presto torni a te, che poi vedrai dovrò dividermi con gli altri un monumento. Essere un nome in mezzo ai tanti, come aria dentro al vento. Tra gli altri corpi qui in montagna, nessuno è solo più di me, che spero al posto del fucile il mio abbraccio stringa te. Devo dirti che ho guardato altre gambe, culi e tette, per non morire ci ammazziamo di seghe e sigarette. Tra gli altri corpi qui in trincea sono tutti soli come me, che spero al posto del fucile il mio abbraccio stringa te.